tutti punk. Birra e vino gratis. Birra e vino gratis. Birra e vino gratis. Birra e vino gratis. Gratis. E ai post-fascisti dici di cognome. E ai post-fascisti calci nei coglioni. Birra e vino gratis. Birra e vino gratis. Cos'è per te essere punk? Cos'è anarchia per te? Cos'è per te essere punk? Cos'è anarchia per te? Cos'è per te essere a tutti punk? Birra e vino gratis. A tutti punk. Birra e vino gratis.